sono nessuno, paragonatemi a uno spettro. Per te signor nessuno, abbi un po' di rispetto. Ma sono anche il numero uno, a number one. Fatemi un po' di spazio, sta arrivando next one. Arrivo col botto, non ci sono più scuse. Nel rap mi ci butto, ma senza paracadute. Che per anni ho sognato guardando la cima. Ora si volta pagina, passano il resto in panchina. È invecchio come il vino, miglioro nel tempo. E di stappare sta bottiglia dannata il momento. Però sta attento, sta roba è un colpo in canna. Il mio rap è dannoso, contiene olio di palma. È sto veleno che danneggia me stesso e chi c'è intorno. E se ne uscissi sconfitto, aspettate il mio ritorno. Perché su questa merda non morirò mai. Io sono un fottuto succhiasangue. Twilight. Mi sono messo a scrivere solo per tre motivi. Pensate a ciò che fate voi per sentirvi vivi. Il punto è che a me sta roba mi fa battere il cuore. Perciò il primo motivo è di sicuro la passione. Il secondo motivo, forse il più banale, è che su questa scena ce ne fosse uno che vale. E io che per primo sono un ascoltatore, ho pensato di mettere al mondo una nuova canzone. Smettere quindi di ascoltare la roba degli altri. Che ormai di rapper tutti uguali ce ne stanno tanti. Ho cancellato tutti i brani, una libreria pura, e adesso la riempio con dei brani su misura. Qui il 16 finisce l'ultima motivazione. È ciò che mi spinge in ogni mia singolazione. Reprimere la rabbia è per sfogarla il modo è uno. E questo serve ad evitare di uccidere qualcuno. E quante volte avrei potuto, ma io non potevo, meglio non volevo. Spaventato da quello che avevo la capacità di piegare le parole. Dire qualcosa che la gente non vuole. Sentirsi dire preferire l'ignoranza. Ho visto il mondo, ora mi chiudo in una stanza. Mi sono pronto a liberare il male che ho dentro, perché sono io in quattro mura di cemento. Sì, quattro mura, quattro fottutissime mura. Next one, mettetelo in testa. Next one. Sì, non sono nessuno. No, no, sono il numero uno. Per ogni volta ci rimetto, ma ora non più. Questa volta offro io, sì, offro io, ma soffri tu. E quante volte avrei potuto, ma io non potevo, meglio non volevo. Spaventato da quello che avevo la capacità di piegare le parole. Dire qualcosa che la gente non vuole. Sentirsi dire preferire l'ignoranza. Ho visto il mondo, ora mi chiudo in una stanza. Mi sono pronto a liberare il male che ho dentro, perché sono io in quattro mura di cemento.